Quindi se volete la verità, andate dentro voi stessi, amici, perché quello è l'unico posto dove troverete mai la verità vera. Da noi non potrete ottenere mai la verità. Vi diremo tutto quello che volete sentire mentendo senza vergogna. Noi vi diremo qualsiasi cazzata vogliate sentire. "24 mattino" di Alessandro Milan. Tu sei bravo. No, ma che bravo. Sei bravo. No. Tu sei molto, molto bravo. Ma fanno gli scontri, io sono ormai quasi affezionato, tutte le volte che vengo a Napoli, se dovessi dire con una battuta, ho delle contestazioni molto veementi e quindi dico che ormai ci sono affezionato, però tornando sul serio vorrei dare la mia solidarietà agli 11 agenti che sono stati feriti. Voglio dire con molta chiarezza a chi ci ascolta, ai napoletani, qualcuno racconta che noi stiamo mettendo le mani chissà su che cosa, che stiamo facendo un'operazione di cementificazione. Vorrei essere chiaro, noi il cemento andiamo a togliere, perché eliminiamo la colmata per intero, questa è la notizia. Aiuta in essere, aiuta alla capa già. E chiusa, poi è tornata, poi è venuta, sta sempre qua. Beh, devo dire un punto a favore di Renzi, dai, che di fronte agli scontri dice: questo è il comitato d'accoglienza e io ci torno un mese, tra un mese. Così si fa, devo dirlo, così si fa. Allora amici, eccoci qua. Sono le 6:31 minuti e 24 mattino riparte anche oggi siamo qua. Ci siamo. Si riparte, via! Ragazzi, anche oggi, bisognerebbe cambiare la preghierina, quella che conosciamo tutti, e dire: dacci oggi la nostra intercettazione quotidiana. Oggi c'è l'intercettazione maestra, somma. Non è quella in cui la Guidi dice al compagno che c'è un governo di figli di... una cricca, un quartierino. Non è quella in cui dice che il ministro Padoan è stato messo lì da quelli di un quartierino, di una cricca. Non è quella in cui si parla di un dossier con foto contro il ministro Delrio. Ma è un bel ambientino, veramente. Ma la intercettazione del giorno è quella, come racconta il Messaggero, in cui a un certo punto la Guidi sbotta col compagno e gli dice testuale, due punti, aperte virgolette: tu mi tratti come una sguattera del Guatemala. La sguattera del Guatemala. Salutiamo tutte le sguattere del Guatemala che magari stanno andando a lavorare in questo momento, ci ascoltano. Un abbraccione a tutte loro, ovviamente. Non era offensiva, ovviamente, il ministro Guidi, l'ex ministro Guidi. La sguattera del... tu mi tratti come la sguattera del Guatemala. Saluto Filippo da Livorno. Saluto Giorgio e Marco, i fornai di Ravarino. Com'è col pane rosso per la rossa? È arrivato il pane rosso per... Vi giuro, è arrivato il pane rosso per la rossa con la foto. Dobbiamo, Emanuele Brignoli, dobbiamo subito tirare giù la foto da WhatsApp alle 6.31, mandarla su Twitter, tira dentro anche Paola Saluzzi. È arrivato il pane rosso. Vabbè, però ragazzi, ho visto la foto, cioè il pane rosso è una pagnotta con un po' di sugo sopra. Sugo rosso. Vabbè, vabbè, premio la vostra creatività. Vi mettiamo su Twitter e vi giuro, subito, al giro di qualche minuto, e Paola Saluzzi sarà contenta. Eccoli qua, belli sorridenti a quest'ora, i fornai Giorgio e Marco da Ravarino, capite? Fornai a quest'ora già lavorano, fanno il pane per tutti voi. Alle 6.34 minuti, devo subito convocare i nostri ospiti, a cominciare da Carla Rocchi. Buongiorno, ben ritrovata. Buongiorno cari, eccoci qua. Eccoci, presidente dell'Ente Nazionale Protezione Animali. Insieme a Carla Rocchi c'è il graditissimo ritorno di un uomo che secondo me un po' gode di questi scontri a Napoli. È un po' lì che dice il cazzaro ha avuto una giornata un po' così. Maurizio Bianconi, onorevole di... Buongiorno a voi, buongiorno. Come va? Bene, come vuoi che vada, bene. Bene, bene, bene. Renzi come andrà a Napoli? Renzi, no, a Napoli... Gli è toccato l'antipasto, secondo me. L'antipasto. Sì, perché se non smette di raccontare cazzate a destra manca, va a finire che dopo qualche manata la prende. Insomma. Addirittura qualche manata. Sì, no. perché ha questo modo molto da disc jockey, lui e la signorina, di gestire il governo, e che prima o poi la gente che gli gira un po' i coglioni la trova, capito? Ah, ecco. Va là, risolve tutto lui e si va a infrattare in cose più grandi di lui, peraltro, perché il problema Napoli è più grande delle semplificazioni del segno magico. Sì. E quindi poi ci ritorno e fa un mese e ci ritorno, non ci ritorna manco col cazzo che ci ritorna. Lui fa tutti questi discorsi perché è proprio il classico bomba. Gli è scoppiata la situazione in mano. La signorina Bianconi, voglio immaginare chi è la signorina. La signorina è Don Cry for me Laterina, come dico io, no? C'è Don Cry for me Argentina, la Evita Perone, no? Lei di Laterina. Chi sarebbe? La Boschi. La Boschi è nata Laterina. Don Cry for me Laterina, no? Quando è in difficoltà, Evita Boschi, Laterina al suo paese non pianga per lei, insomma. Sì, sì, sì, come certo, la famosa certo. canzone. Come la Evita Perón, Evita Perón, Don't cry for me, Laterina. esatto, vedi come un vero disc jockey il nostro Peter Bescapè la mette appena chiamata. È questa, Don't cry. Don't cry for me, Laterina. vabbè. Dobbiamo aprire anche il Parlamento, dove ricordate che la Boschi va a prendere sempre il caffè. Eccola qua. Vado a prendere un caffè, quindi semmai ci vediamo più tardi. Grazie. Ci vediamo più tardi, eccolo qua. Cioè, questa qui e quell'altro hanno in realtà messo su dei comitati d'affari che stanno esplodendo. Oh, mannaggia. Soltanto perché c'è un signore che conosce una canzone che dice prendi una donna, trattala male, che è questo Gemelli, no? Sì. Che ha preso questa qui e gli fa fare quello che vuole lei. E lei si lamenta perché dalle camicie là non gli sta bene niente, vabbè. Che la tratta come una quattro guatemalteca, però e svela la realtà di questo governo. Però io devo dire una cosa, anche Carla Rocchi, ricordiamo che Carla Rocchi è stata parlamentare, è vero? Parlamentare. Insomma, qua adesso si scopre, adesso siamo tutti verginelli di fronte al potere, oppure il potere in qualche modo ha sempre... No, ha sempre fatto. Voglio dire, è la solita vecchia storia che il paese manda al potere l'immagine di se stesso, quindi non è che possiamo pensarci che ci siano queste gran cose, ma comunque io mi chiedo ancora, ma perché la gente continua a parlare al telefono? Ma a un certo punto la guidi. Lei glielo dice telefono. Glielo dice la guidi, a un certo punto glielo dice a Gemelli, dice sempre al telefono, al telefono, al telefono. Come dire, allora hai capito che siamo un popolo di intercettati. Ma poi voglio dire, se uno si fidanza con una persona, con una persona che è in affari, non è che la guida era fidanzata con un filologo romanzo, Se uno è in affari, se lo puoi immaginare, che viene intercettato, e allora Dio santo, parlatevi a casa. Andatevi a pigliare il famoso caffè. Ma è una situazione un po' strana, perché all'inizio si diceva che era suo marito, adesso sto verificando il suo ruolo. Così cambiano le cose del mondo, sì. Insomma, perché però hanno fatto il divorzio velocissimo. Insomma, è strano però dire, uno ha una persona con cui ha parlato in questo modo, due giorni prima dice lo considero mio marito, poi improvvisamente, certo, in due giorni con una persona che in qualche maniera ti tratta, una persona a cui tu dici mi tratti con una sguattera, non è proprio una guatemalteca. Guatemalteca, ecco. E poi questo tocco di esotico veramente infatti noi arriviamo anche in Guatemala, ci ascoltano un po' in tutto il mondo, basta con l'app ascoltarci. Bianconi, vogliamo dire qualcosa? Ci dichiarerà guerra il Guatemala adesso? No, Guatemala, paese che io conosco abbastanza bene. Ah, sì? Sì, mi piace, è un paese, è stato diverse volte. E ci sono sguattere? È un paese, è il classico esempio del paese devastato dal colonialismo criollo, con una civiltà di gente triste e vilipesa, purtroppo. Che momento tristezza sul Guatemala. c'è anche questo suono di marimba che lei lo sente in tutto il Guatemala, che è un suono triste. È un suono di un popolo proprio vinto. Bisogna far risuonare l'inno del Guatemala. Senti un po'. Facciamo risuonare l'inno del Guatemala, perché io non vorrei. Anzi, chiediamo formalmente scusa. Lo fa l'onorevole Bianconi, deputato. Per a nome di tutti, anche Carla Rocchi a nome del, come ex deputata. Ma soprattutto il mio lavoro è quello, io sono stata e sono un'americanista, quindi voglio dire. Per me è proprio. Trattare male una persona, cioè pensare di trattare male una persona dandogli un epiteto con un paese latinoamericano è proprio una roba di una cafonaggine. Però al telefono, dai, Bianconi, però è bello perché certe cose le dice anche al telefono in diretta, quindi guida noi, non c'è bisogno di essere intercettato. Però io non ho un comitato d'affari da tutelare. La differenza, la Rocchi dice una cosa vera, e cioè che la classe dirigente rispecchia il paese. Il problema è che questo qui aveva detto che cambiava verso, nel senso che cambia chi fa gli affari, non il verso. Te che mi ci metto io. Vabbè, adesso però è comodo di Bianconi, basta salire sulle intercettazioni e cavalcare viene fuori una questione, perché quell'altro come l'hanno fregato? L'hanno fregato con le intercettazioni. Quell'altro sono gli ex suoi, i Berlusconi. I Berlusconi, ma anche tutti, fregano meno che i piccini della mafia, fregano tutti con le intercettazioni. A proposito di mafia, vedete come siamo globali. Intanto mi arrivano al 349-238-6666 saluti da Mauritius. Ci stanno ascoltando da Mauritius. Evviva, come tutti i nostri ascoltatori in tutto il mondo. Qui la questione mafia, visto che è stata toccata, dobbiamo saltare nel piatto della vicenda Bruno Vespa. Io dico una cosa. Oggi lo scrive giustamente Marco Travaglio in Prima del Fatto, dice non ho visto l'intervista, se ha fatto delle buone domande sarà una buona intervista, se no no, ma per principio non esiste nessuno che non sia intervistabile. Ma cos'è sta storia che i cattivi non dovrebbero andare in TV? È la storia del perbenismo cattolico e in qualche modo sovietico a suo tempo. Io capisco il rispetto però delle vittime della mafia, questo prima di tutto. Ma uno lo intervista e gli fa le domande e gli dice, gli chiede le cose, lo mette di fronte alle sue responsabilità. E c'è l'elevata convinzione che basta comparire in TV per essere dalla parte dei buoni, e questo anche il concetto. Però perché Bianconi? Perché come scrive sempre Travaglio ci hanno abituato a delle interviste scendiletto. E quindi forse è un po' così. Le interviste sono un pochino sempre servizievoli, e voglio dire, con tutto rispetto per Vespa è uno specialista, insomma, quando l'azionista di riferimento, come chiama lui, chiama e lui risponde. Non fosse altro, però non so, vediamo. Carla Rocchi, Carla Rocchi l'avrebbe mandato in onda. Ma guardi, io dico, è stata noiosa. E il problema di questa intervista è stata la noia. Io l'ho vista. Quindi questo è il problema. Una brutta intervista. Io capisco essere servito, ma poi Vespa è un professionista indiscutibile. Ma quando uno chiede al figlio di un noto mafioso, eccetera, ma lei si è accorto che il suo babbo era mafioso? Risposta: no, eravamo a casa. Uno la domanda la fa, ma questa risposta dice: scusi, ma lei dove viveva? Non lo so. Cioè, quello che manca, secondo me, nel nostro, in questa situazione, è che di fronte a una risposta così palesemente assurda, uno dovrebbe dire: guardi, fanno una risposta assurda, abbia pietà di noi. Però insomma, vogliamo sentirla la voce, perché io tra l'altro dico: ma magari venisse anche ospite qui a 24 mattino, cioè non, che vuol dire? Allora era in vita Bin Laden, non si poteva intervistare Osama Bin Laden, cioè ma non si può accettare una risposta così. Va bene, infatti, ma infatti, ma in questo dice Travaglio, cioè il cuore è il come uno poi fa l'intervista, non è. Io non sto giudicando perché non l'ho vista, Carla Rocchi, di cui mi fido ciecamente, dice che è stata noiosa, ma sentiamola la voce di Riina Junior. Mio padre diceva che andava a lavorare la mattina e tornava sempre tutte le sere a casa, quindi per me e per noi era un lavoro normale. Certo, poi magari con gli anni, crescendo, ho cominciato a capire che c'era qualcosa di diverso. Qualcosa di diverso, cioè non era come... Dai, non è, cioè usciva la mattina come tutti i papà di tutta Italia, figliuolo vado a lavorare e alla sera tornava. Andavano a scuola, la cosa incredibile è che non andavano a scuola loro, capito? Non andavano a scuola. No, andavano a scuola, chissà perché non andavano a scuola. Ma per un bambino è il massimo, non vai a scuola, ma bellissimo! E bimbetto che piano piano capisce, come dice quel proverbio, col tempo e con la paglia maturano anche le nespole, la solpa e la canaglia. No, aspetti, questo io sapevo fieno e paglia maturano anche le nespole. Com'è invece? No, col tempo e con la paglia matura la solpa, che sarebbero le nespole, e la canaglia. Cioè anche quelli che non capiscono, gli scemi, delinquenti, mascalzoni, finiscono col capire. La sorba, quindi la nespola, vedi che è c'è? La nespola. Io sapevo la versione più edulcorata, lei è un toscanaccio, cioè fieno e paglia maturano anche le nespole, che peraltro non fa rima, mi sono sempre chiesto, non fa rima, fieno e paglia maturano le nespole, non fa rima. Chi non vuole? Fa rima, è un classico disastro. Proviamo del cazzo, mi è bello. Sì, effettivamente, un po' così, va bene. Dobbiamo andare al traffico. Sentite un'altra no di Riina, sempre: noi facevamo una vita diversa. Senti qua, Riina Junior. Noi abbiamo sempre vissuto nella massima tranquillità. Era normale non andare a scuola? No, non ce lo siamo, cioè nel senso, non ce lo siamo mai chiesti in maniera. Abbiamo sempre vissuto questa vita un po', come dire, diversa dagli altri. Siamo sempre cresciuti su questa linea. Diversa, Rocchi non andava a scuola e erano felici così. I bambini che non andavano a scuola. Beh, come i lord inglesi che hanno l'istitutrice a casa. infatti. Va bene, dai, dobbiamo andare al traffico e poi rientriamo tra un attimo. Caro Alino, che sei in Milano, dacci oggi il nostro traffico quotidiano. Milan. Solo con te, alla mattina Milan è sempre solo te. Sbaglio o Renzi è un po' agitatello in quei giorni qua, eh? Molti di questi che hanno i danari a Panama diranno li avrà messi qualcun altro a loro insaputa, come il Bertone e Scaiola. Queste 80 euro sono solo un'offesa all'intelligenza altrui. Perché non abbassa le tasse? Perché non aboliamo il canone? Ti do io a te 20 euro e aboliamo il canone, dai. Ciao Milan. Prendiamoci gli 80 euro e mandiamoli a casa. Ora de salbeschi dolgiu, incomincia a foidare. Ma non arrennesce a callare, non taga tanto pa dolgiu. Milan, ti deve schellare. Dialetto sardo. Io ti ascolto prima sempre di andare a scuola. Ho saputo che tifi Milan, anch'io lo tifo. Viva il Milan! Grande amichetto mio, vedi, vai a scuola, vedi, questo bambino va a scuola, invece non si pone la domanda. E allora siamo con Maurizio Bianconi, conservatore riformisti, e siamo con Carla Rocchi. Allora, avete i soldi a Panama? Chiediamo subito così. In Guatemala. Bianconi, infatti, questi viaggi in Guatemala come mai? Non è che scopriamo? No, sono appassionato di certi mondi. Non è una zona offshore così? No. Ho sempre avuto questa... io sono di destra, però mi dicono che ho queste tendenze verso la gente povera, verso i popoli un po' così contro i poteri forti. Sono un po' venuto un po' male, capito? Mi affascinano questi popoli che partiscono. Popoli così. Vabbè, insomma, è un no sulla risposta ai soldi in Guatemala. No. E anche a Panama, no. Caputtana, ma non mi faccio ricordare. È una risposta sui soldi, non è questione del posto. Esatto. No, perché attenzione, cominciano a spuntare altri nomi. Sapete i nuovi nomi italiani che oggi spuntano sui giornali? Attenzione. Udite, tenetevi forte. Carlo Verdone. Lui miliardi ce l'ha sicuro. No, ma sì, non lo sappiamo. Così Carlo Verdone dice l'Espresso e poi Barbara D'Urso. Anche lei un po' di quattrini l'ha fatta, un po' di quattrini tutti i giorni. Qualcosa una verità. Non lo so, Carla Rocchi, qual è il nome? Lei una che fa le interviste alla Vespa. Alla Vespa, ecco. Carla Rocchi, che nome la stupisce di più tra Carlo Verdone e... Mi stupisce Carlo Verdone, perché, sì. Ma soprattutto perché... Figuriamoci, perché Carlo Verdone dà l'idea di un uomo abbastanza pigro. Lui si autodà l'idea di un uomo tranquillo, di un uomo disciplinario. Non è che bisogna essere dinamici per mettere i soldi a Panama. No, ma dà l'idea che uno sta a Roma, sta a casa, che magari fa fatica pure a dà l'idea di uno molto centrato su Roma, collegato con una realtà così lontana, al di là della legittimità. Ma vede com'è, io faccio l'avvocato, no? E quindi so come funzionano queste cose. E lui c'aveva un commercialista, un promotore finanziario, e gli aveva detto: se lo dico io come devi fare, dalle a me che ti metto e si ripassi, e lui basta, me lo piglioni, fa come ti pare, così è Verdone, gli avrò detto così più o meno. Vabbè, allora non si sa, comunque questo è. Vi devo far sentire il Brunetta del giorno, ma sentami un po', Bianconi, una volta ci ha raccontato di Umberto Bossi che gli dà i pugni, no? Passa. Il braccio di ferro in Parlamento. Brunetta, ci vuoi raccontare un aneddoto di Brunetta? Ma perché sempre così? Ecco, facciamo sentire una giornalista della RAI, gli fa una domanda sulla mozione, sentite la risposta. Perché mi dice in ordine sparso? Non capisco. Noi abbiamo una nostra mozione. Questa attitudine della RAI a dare delle indicazioni sul centrodestra in ordine sparso per me è inaccettabile. Faremo anche delle interpellanze urgenti alla Commissione di Vigilanza proprio perché... E poi cosa dice anche? Pensi alla RAI occupata da Renzi. Ma guardi che... Cioè, cos'ha? Non è un caso politico. È un caso di altra natura. Io non ho rapporti buoni con quest'uomo, il quale è un dispettoso di natura, è un egocentrico. Lui la mattina salza e mette i piedi a destra e la politica tutte le mattine salza e va dall'altra parte. Sbaglia anche politicamente. No, politicamente è completamente. Quante volte si è avventurato, poi gli ha telefonato il capo, gli ha detto esattamente il contrario, ha questa mania di protagonismo, ha voluto fare il capogruppo per forza. Non vi volete bene, dai. No, io per me è un bravo professore, ma è come sempre per fare l'avvocato: se vuoi dare una causa a rovinarla, dalla al professore. E così se vuoi farla alla politica, falla fare ai professori. Al professore. Perché non è come la guerra fatta dai generali. Ora io non voglio in questi ultimi tre minuti, mi siete molto simpatici, farvi litigare, per carità, non vi voglio fare litigare perché so che in fondo il bene deve prevalere, è mattino presto eccetera, ma cara Carla Rocchi, qui il qui presente onorevole Maurizio Bianconi è notorio per aver detto tra le altre cose a Radio Cusano Campus che i vegetariani o comunque i vegani i vegani sono un po' dei, come dire, lo faccio dire a Bianconi, sono dei malati di mente. Secondo me c'hanno un baco in testa, cosa c'hanno? No, io ho detto una cosa che la penso. che mentre il vegetariano è assolutamente normale, eccetera. È normale? Secondo, sì, sì, normale. Sì. Il vegano? È una, il vegano è come il bulimico e l'anoressico, è una forma di malattia alimentare. Ah, di malattia alimentare. Sì, Rocky. Sì. Ma Rocky, lei è vegana? No, vegetariano. Io sono vegano e ancora non mi hanno portato, non mi hanno dato il trattamento sanitario obbligatorio. Però, no, però... ma non è mica una questione di mente, è proprio una questione patologica. Il punto è questo, noi dobbiamo, le persone che ci aiutano tanto, che ci hanno fatto passare in un anno a 2 punti percentuali in più, in Italia siamo passati dal 6 all'8% della popolazione che è entrata nella grande famiglia vegetariana vegana. Sapete chi ci aiuta? Tutte le persone che sollevano il problema. Sì, perché l'importante è che se ne parli. In passato non si facevano grandi passi avanti. Quindi chiunque parla di questo argomento, anche a cavolo, ci fa un favore. Avete Bianconi ha portato acqua al mulino dei vegani. Ma su questo io non ho dubbi. Su questo io non ho dubbi e non sono neanche ostile. Ho fatto una valutazione che secondo me è clinica, una valutazione clinica. Poi è tutta bravissima gente. Quello che mi dà noia è la violenza che ogni tanto si pongono. Mi mandano i tweet che mi ammazzano, che sì, che là, che io sono una... Ecco, è un'altra cosa. Che qual è il tweet più violento che hai ricevuto? Morirai. Vabbè, questo è una previsione. Sei un consumatore di cadaveri. Io non, praticamente la carne rossa non la mangio neanche perché non mi piace. Pesciolino ogni tanto. Pesce mi piace, come no. Però quello che mi dà noia anche, devo dirlo, perché mi è simpatico, è quello che fa Crociani, perché ci sa, si possono mangiare anche cani. Non ce lo toccate quell'uomo là, perché ma quello è l'uomo che a noi ci ha fatto crescere in percentuale. Carla Rocchi, viva Crociani, dica Carla Rocchi. Ma ci fa crescere, questo è un argomento. Lo dica prima, così, così la mandano alla zanzara. Viva Crociani. Sapete cos'è Crociani per noi? Quello che è la guida per il referendum Trivelle. Non se ne parlava e se ne parla. Lui ci fa parlare di questo. Ogni giorno si acquistano proseliti, quindi non ce lo toccate. A parte che secondo me non tocca nessuno, perché io vorrei vedere, non lo so, tutti questi assalti, ma comunque è in influenza. Sapete che dice Anna Maria Testa, la grandissima pubblicitaria? L'importante non è il messaggio, è che arrivi il messaggio. Che se ne parli. L'importante è che se ne parli. Vabbè, dai, non vi ho fatto litigare, ma mi piaceva concludere così con Maurizio Bianconi, onorevole conservatore riformisti, e Carla Rocchi, presidente dell'ENPA. Grazie davvero e alla prossima. Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud. 1, 2, 3. Adesso, tra poco, ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. Eccoci cari ascoltatori, sono le 7:19 minuti in punto, siamo qui pronti a leggere i giornali. Ah, quante belle notizie oggi, quante clamorose notizie. Oggi vi darò alcune chicche dai giornali. E allora intanto diciamo che avremo ospite il presidente della commissione Vigilanza Rai, Fico, del Movimento 5 Stelle, che è anche napoletano, quindi sui due fronti, sia contestazione a Renzi sia le polemiche per Rina in TV, e insomma parleremo anche con voi di tanti argomenti. Quali? Li andiamo a scoprire. Eccoci qui in questo giovedì 7 aprile. Intanto i titoli, l'apertura del Sole 24 Ore è sulla riforma delle banche di credito cooperativo. Approvata la riforma delle BCC, alle banche le garanzie sugli NPL. Questo è il titolo di prima pagina, mentre per gli altri quotidiani ci sono aperture variegate. Il Corriere della Sera: assessori in piazza, scontri a Napoli, Renzi dice vado avanti. Anche il Messaggero: guerriglia Napoli, sfida di Renzi, per Libero volano pietre su Renzi. È citata anche il celebre detto vedi Napoli e poi puntini puntini. Mentre l'apertura di Repubblica: liste d'attesa in 2 milioni costretti a pagare tangenti. Cantone dice mafia e corruzione negli ospedali. Sulla questione sanità è anche il titolo di Avvenire, l'apertura, la tassa sulla salute. mentre La Stampa, Petrolio, lo scontro tra il clan Gemelli e gli uomini di Renzi, ancora l'inchiesta in primo piano. Per il Fatto Quotidiano, la Guidi intercettata, Padoan l'ha messo lì, la cricca del petrolio. Questo è il titolo di prima pagina. Mentre Il Giornale è l'intercettazione shock della Guidi, anticipata ieri da Repubblica. Nel governo un clan di figli di... puntini puntini, ovviamente. Queste alcune delle aperture, ma... Da cosa voglio partire? Dai Panama Papers. Ebbene sì, perché si avvicina il venerdì, ieri ne abbiamo parlato, l'Espresso uscirà con i nomi, ma alcuni nomi ovviamente interessano soprattutto i nomi degli italiani, ma non solo. Alcuni dei nomi finiti nei tantissimi documenti trafugati da questo studio legale a Panama sono già anticipati dai giornali. Eccoli qua, ne volete due eccellenti italiani? Carlo Verdone e Barbara D'Urso. Questo raccontano i quotidiani. Pagina 14 di Repubblica, spunta Carlo Verdone per una società offshore, la D'Urso nella lista. Si allunga la lista degli italiani famosi nei Panama Papers. Nel numero di domani, il settimanale Espresso cita l'attore romano Carlo Verdone e Barbara D'Urso, Mediaset. La notizia arriva mentre la Procura di Roma valuta l'inchiesta di una, l'apertura di un'inchiesta sul caso. Verdone sarebbe stato titolare di un'offshore registrata a Panama, chiamata Atilit Real Estate, arrivata presto al capolinea perché registrata nel 2009, è stata liquidata nel 2014. E poi ecco comparire anche Maria Carmela D'Urso, nome all'anagrafe della presentatrice. Risulta amministratrice della società Melrose Street Ltd, registrata nel 2006 alle isole Seychelles. Ed agosto 2012 i documenti contabili di Melrose Street sono stati conservati presso il domicilio della conduttrice TV. I legali della D'Urso dicono: siamo di fronte a informazioni lacunose. Ma certo, questi due nomi sono i nomi che, per quel che riguarda l'Italia, sono più curiosi. Il Mondo però si interroga anche sullo scandalo che fa tremare il Partito Comunista Cinese, come racconta Filippo Santelli sempre su Repubblica, pagina 15. Nelle società offshore infatti ci sono i parenti del presidente Xi Jinping. Il cognato controllava tre società offshore, coinvolti anche alti dirigenti di Pechino. Insomma, diciamo che tutto il mondo trema anche, anzi in realtà non se ne frega molto, Jean-Marie Le Pen, perché la dinastia Le Pen in Francia sarebbe finita anche lei in questi Panama Papers. In realtà Jean-Marie Le Pen, quindi il decano, viene intervistato dal Corriere della Sera da Stefano Montefiori e dice: i miei lingotti d'oro, è folklore. Così, folklore, Jean-Marie Le Pen, folklore, questa non è male, eh? Folklore, i miei lingotti d'oro. Trovo bizzarro, sentite l'inizio dell'intervista, no? Cioè uno dice: il giornalismo d'inchiesta, il giornalismo investigativo, demolito di Jean-Marie Le Pen in una frase. Trovo bizzarro il ruolo di giornalisti poliziotti che si mettono a fare i magistrati. Ma come si chiama giornalismo d'inchiesta, verrebbe da dire, caro Jean-Marie Le Pen. Comunque, e poi ci sono 11 milioni di documenti e quello di cui parla sono io? Di cui si parla di più sono io? È tutto folklore. Coi conti digitali si trasferiscono miliardi con un click, ma i lingotti colpiscono di più l'immaginazione. E poi perché in Europa non abbiamo paradisi fiscali? Da Londra a Guernsey a Lussemburgo, se ci sono paradisi fiscali è perché ci sono degli inferni fiscali. Anche questo non è male, eh? Se ci sono paradisi fiscali è perché ci sono degli inferni fiscali. La Francia ne è uno, dice Jean-Marie Le Pen, con il 46% di tasso di prelievo. E poi c'è un'altra cosa che mi sorprende di questa storia. Che scoperta, Panama, ma pensa un po', esistono paradisi fiscali. Strano però che pochi americani anglosassoni siano coinvolti, e qui Jean-Marie Le Pen alimenta questa argomentazione che anche ieri Oscar Giannino diceva: ma come mai pochi americani anglosassoni coinvolti? Insomma, chi ha dato tutti questi dati? Chi ha diffuso queste cose? Vabbè, Jean-Marie Le Pen è folklore. mentre non è folklore ma è un tripudio di polemiche la presentazione, o meglio l'apparizione, scusate, di Riina Junior, Giuseppe Salvatore Riina, figlio del super boss Totò Riina, intervistato A Porta da Bruno Vespa. Devo dire, a mio modo di vedere, questa è la mia posizione personale, polemiche assurde, come scrive giustamente oggi Marco Travaglio in prima pagina del Fatto Quotidiano. Il problema non è tanto la patente di intervistabilità, scrive Travaglio, non esiste nessuno che per definizione non meriti di essere intervistato. Si è diffusa l'idea, anche tra la gente, che i cattivi non debbano parlare in TV. Certo, scrive Travaglio, si risponde alle giuste, cioè si deve rispondere alle giuste domande, non certo pontificando senza contraddittorio. E si è diffusa questa idea perché la TV ci ha abituati alle interviste scendiletto che diventano immancabilmente uno spot all'intervistato, il quale, specie se è famoso, pretende di non affrontare certi argomenti in cambio della sua scelta per questo o quel programma. E poi ricorda Enzo Biagi, che intervistò per la Rai Fior di Criminali da Michele Sindona a Luciano Liggio, eppure nessuno ebbe nulla da ridire, diversamente da Lino Iannuzzi compiacente con Michele Greco, detto il Papa. Biagi tenne invece a bada Sindona e Liggio e lo fece senza urlare, cioè, scrive Travaglio in questo editoriale, il cuore dell'editoriale è: non conta chi intervisti, conta la qualità dell'intervista, le domande che fai. Ma effettivamente dare della patente di inintervistabile a qualcuno è francamente una vergogna di cui si dovrebbero vergognare tutti i parlamentari che hanno detto così. Però la polemica c'è. Riina Junior in TV, Porta a Porta è un caso, questo è il titolo del Corriere della Sera, e guardate che il caso c'è. Ecco, qui di fronte al parere, ecco, non di parlamentari, di fronte al parere di Manfredi Borsellino, io mi fermo, perché chi più di lui, come le vittime della mafia, è titolato a dire qualcosa, e lui lo fa, intervistato da Enrico Bellavia su Repubblica, pagina 3. Guardate che le interviste di Manfredi Borsellino sono perle rare, perché parla davvero raramente. Uno dei figli di Paolo Borsellino dice: mi verrebbe voglia di non dire nulla, e non per reticenza, perché questa storia ha dell'incredibile. Io non mi scandalizzo più di tanto se il figlio di un feroce criminale mafioso anche lui voglia dire la sua. Trovo incredibile che gli si offra una ribalta televisiva, per di più pubblica. Ammetto pure che ci possa fare un libro, ma poter diffondere su larga scala l'idea che suo padre sia un eroe, ecco, questo mi sembra semplicemente incredibile. Ecco, questo è il punto, però, è il cuore a cui faceva riferimento anche Travaglio, cioè dipende poi dal che cosa si chiede a Riina Junior. Comunque, Manfredi Borsellino dice: io l'ho risolta così, mi son visto la partita di calcio. Diciamo che ho un carattere che mi aiuta, provo a immedesimarmi in chi ha un modo di vivere il proprio dolore in modo diverso, e allora capisco perfettamente che si tratta di uno schiaffo. E guardate che anche Monica Maggioni, presidente Rai, intervistata da Arturo Celletti, una pagina di intervista in cui parla della Rai a tutto tondo, dice ad Avvenire: a un certo punto c'è il servizio pubblico, la storia del nostro paese, la ferita che la mafia rappresenta. Nel servizio pubblico e per i giornalisti del servizio pubblico, la vittima e l'aguzzino non possono avere stessa dignità di racconto, a meno di non considerare sullo stesso piano la mafia e chi lotta contro la mafia. Sentire quel racconto in cui il figlio non giudica e non condanna il padre è difficile da sopportare, così dice la presidente Rai. Vorrei vedere, invece di ascoltare le sue lucubrazioni, molta più attenzione quotidiana per le storie di cronisti minacciati dalla mafia. E poi fa questa proposta: mi piacerebbe che i diritti del libro di questo signore, manco lo nomina, Riina Junior, potessero essere sequestrati dallo Stato come beni di provenienza mafiosa destinati alla lotta contro la mafia. Ma il titolo di Avvenire dell'intervista a Monica Maggioni: racconto insopportabile, così definita intervista di Vespa, per il quale c'è anche il gelo dell'amministratore delegato Campo Dall'Orto. Lo racconta il Messaggero. Campo Dall'Orto viene definito con questo aggettivo: risentito nei confronti di Bruno Vespa. Oh, vabbè. Arriviamo, dai, all'articolo che ci fa mazzare della giornata. L'articolo da Mani sul Volante, e questo è proprio da Mani sul Volante in il vero senso della parola, perché riguarda due auto blu, costo 224.000 euro. Ah, però Crocetta si regala due auto blu da 224.000 euro. La storia la trovate su Libero. Alberto Samonara conta con una Sicilia quasi in bancarotta. Il governatore fa spese. La regione acquista due costose auto blu per il governatore, fiammanti vetture nuove di zecca che costano alle pubbliche casse la bellezza di 224.000 euro. E alè! Sono cose che capitano. Ma che razza di atteggiamento è questo? Cose che capitano. Capitano soltanto perché questo paese è pieno di gente che quando queste cose capitano dice sono cose che capitano. State ascoltando un programma offerto da Centrosoftware.com, i migliori ERP per gestire le imprese italiane. Alessandro Milan, il Rossello Brescia dell'informazione. Certo. Un abbraccione a Rossella Brescia, cara amica, e insomma su RDS, concorrente affilati, coi coltelli, siamo così, coi coltelli affilati. Allora, siamo qui a parlare di Bagnoli, dove ci sono stati gli scontri a Napoli per il piano di rilancio per Bagnoli, che ieri Renzi è andato ad annunciare nella città partenopea, con gli scontri, i 10 poliziotti feriti, i contestatori. Renzi che dice alla fine di questa giornata, anche difficile dal punto di vista dell'ordine pubblico, se questo è il comitato d'accoglienza vuol dire che tornerò una volta al mese. Insomma, la risposta di Renzi è scontri, sarò spesso a Napoli. Il Corriere della Sera mette in prima pagina il fatto che tra i contestatori, per la verità non erano tra i manifestanti ovviamente, anzi sono andati via poco prima che ci fossero gli scontri, ma in piazza a contestare c'erano anche due assessori, Carmine Piscopo e Alessandro Fucito. Perché siete al fianco dei movimenti? Chiede Fabrizio Geremica sul Corriere della Sera. Per ascoltare le voci di chi ha difficoltà a farsi sentire, dei cittadini, di chi fa politica sui territori, elabora proposte alternative per l'area ex Italsider. Qui c'è da dire che anche il sindaco De Magistris ha rinunciato ad andare alla cosiddetta cabina di regia, dove si deve ridisegnare il ruolo di Bagnoli, perché dice De Magistris con questa frase: Renzi non è venuto più a Napoli, ma l'ha sorvolata più volte di notte a bordo dell'elicottero come un pipistrello. Così De Magistris dà del pipistrello a Renzi, che lo accusa invece di aver fatto solo perdere tempo. E l'altro giorno in direzione PD ha detto non aver saputo mettere le mani su Bagnoli, mentre De Magistris dice è incredibile lo scippo di competenze istituzionali, l'attentato alla Costituzione, insomma decidere sulla zona ex Italsider senza coinvolgere il sindaco di Napoli. Insomma, siamo agli stracci tra Renzi e De Magistris. Guardate cosa dice a pagina 3 della Stampa, poi pentendosene un pochettino per la verità, il vice sindaco di Napoli, Raffaele Del Giudice, che evidentemente, scrive la Stampa, non si rende conto di essere di fronte a un giornalista, Guido Ruotolo, quando dice ma come? Lui che è un magistrato, De Magistris, potrebbe non mai parteciparvi a questa cabina di regia? Quella cabina di regia, dice il vice sindaco di Napoli, è un corpo di reato. Tutto nasce da quell'emendamento criminale, lo sblocca Italia. E poi aggiunge, mi raccomando, questa è una storia che finisce male. E questo infatti è il titolo, il vice sindaco di Napoli, qui finisce male. Poi aggiunge, mi raccomando, nessuna dichiarazione pubblica. In realtà la frittata è fatta e la dichiarazione c'è. Tra l'altro la frittata è fatta, che è una delle canzoni che utilizziamo in apertura del nostro programma, mi dà lo spunto per leggere anche l'intervista che Edoardo Bennato concede al Giorno. Tante volte, più che analisi di politici, rivolgersi all'anima civica di una città davvero può aiutare a capire le cose. Eccolo qua il cantautore partenopeo. Io vivo nella giungla, esordisce nell'intervista a Rosalba Carbutti sul Giorno. E poi Edoardo Bennato fa un'analisi, a mio modo di vedere, lucidissima. Sentite qua. Le colpe risalgono a 150 anni fa, quei buon temponi di Vittorio Emanuele, Garibaldi, Mazzini e Cavour si inventano l'Italia, dove il problema è la latitudine. Non riesce a mettere insieme Reggio Emilia e Reggio Calabria, Cuneo e Napoli, Treviso e Lamezia Termina, un divario tragico, tremendo, uguale a quello che c'è tra il Cairo e Amsterdam. Chi si azzarda a governare l'Italia si fa male perché tutto il sud è fuori dalla giurisdizione dello Stato. Sia chiaro, non voglio criticare la mia gente, non voglio parlare di buoni e cattivi, stupidi e intelligenti o tirare la croce addosso a me, le colpe sono di tutti. E su Renzi, che è venuto a Napoli, ride: io sono cresciuto a pane e fumo dell'Ital Cider di Bagnoli, mio padre lavorava qui. Sono 30 anni che vengono politici in questa zona, arrivano, fanno un giretto, si prendono qualche insulto e tornano a casa senza risolvere nulla. Ma Bagnoli, se ci viene in veste ufficiale, ti fai male. Così Edoardo Bennato, che poi fa questa sorta di implorazione: mandate i carri armati a Napoli. Va bene. Devo però parlare ora della questione dell'inchiesta e delle intercettazioni, che attraverso la cui lettura abbiamo uno spaccato tragico, se non tragicomico, dell'Italia. È vero, si dirà, mettere in piazza le intercettazioni di chiunque di noi renderebbe tutto ciò un profilo abbastanza ridicolo anche delle nostre personalità, quante cose si dicono al telefono, ma l'intercettazione del giorno che riguarda Federica Guidi e il suo compagno e che sicuramente entrerà nella storia, voi vi immaginerete già nei prossimi giorni commenti, ironie, sfoghi. Beh, a un certo punto Federica Guidi sbotta al telefono con il compagno indagato per la vicenda del petrolio e per questo intercettato: basta, tu mi tratti come una sguattera del Guatemala. Così parla al suo compagno. Lo sfogo di Federica col compagno: mi tratti come una serva del Guatemala. Per la verità la parola usata è sguattera, come racconta anche La Stampa. Ma sul Messaggero e La Stampa c'è questa intercettazione. Non fai altro che chiedermi favori, a un certo punto la Guidi al compagno. Con me ti comporti come un sultano. Mi sono rotta a 46 anni. Tu, siccome stai con me, hai un figlio con me, mi tratti come una sguattera del Guatemala. Io per te valgo meno di zero, le cose che ho fatto per te non vanno mai bene, non sono sufficienti. Insomma, lo sfogo da cui si evince anche la presa di distanza dei giorni scorsi, ma non è l'unica intercettazione. Ieri si parlava di questa intercettazione in cui si parlava di Federica Guidi, parlava di quartierini, di furbetti, per la verità dava anche dei pezzi di M, dei figli di ad alcuni del governo. Eccolo allora che addirittura adesso spunta il dossier con le foto contro Del Rio, il ministro Del Rio. Veleni, tensioni nel governo, un dossier con foto contro Del Rio. Fiorenza Sarzanini racconta che a un certo punto in questa guerra per bande, evidentemente, Gemelli, cioè il compagno dell'ex ministro Federica Guidi, parla con una persona e racconta che i carabinieri gli hanno portato delle foto in cui Del Rio è ritratto con alcuni mafiosi a Cutro. Abbiamo queste foto, in pratica, te l'ho detto, chi ha fatto le indagini è il mio miglior amico, adesso ci stanno le foto di Del Rio con questi. Ecco, il dossier con le foto. E in tutto questo c'è anche l'intercettazione in cui la Guidi si sfoga dicendo: ma Padoan è stato messo lì dal quartierino, te lo devo dire, il quartierino. Insomma, parole chiavi: quartierino, cricche e soprattutto sguattera del Guatemala, che spero non ci dichiari guerra, vero Mauro Meazza? Buongiorno. Speriamo, buongiorno. Davvero. No, vabbè, insomma, vorrei glissare su questo passaggio, anche se appunto riferiamo anche noi, proprio utilizzando il quartierino nel titolo della vicenda, direi poco edificante, sul Sole 24 Ore oggi. Ma poi cosa vuol dire il quartierino? Dal cui e famosi furbetti, furbetti del quartierino. Ma si intende, credo, con bricola, che con è anche un altro termine che ho letto in queste vicende. Volevo dirti, a proposito di con bricole, persone bene informate, Da Panama, da dove ti sto parlando naturalmente, sì, perché sai che sono qui per seguire alcuni affari, sì. di famiglia, non della mia, ma di altre. Oh, no. La famiglia Toir. Sì, sì, Garibaldi. Esatto. Ah, ma quando prima Edoardo Bennato ha detto che il problema di Napoli è stato Garibaldi, si riveliva a forse era Garibaldi Toir. Forse adesso devo rileggere tutto con questa ottica. Ti segnalo un'altra intervista, non celiare sempre, di Angelo Mincuzzi a Hervé Falciani. Tu te lo ricordi Falciani? Come no? Sì. Falciani che dice un po' la sua sulla vicenda dei Panama. Lo abbiamo ospitato anche qui, sempre con Mincuzzi. È un grande scandalo, dice lui, che favorisce poi gli Stati Uniti, come dire, lascia intendere. So che tu segnalavi anche in apertura di trasmissioni, insomma, alla fine qui far filtrare o accedere alle informazioni e poi farle filtrare diventa fatalmente un'operazione anche di pressione politica. Beh, comunque leggi l'intervista a Falciani sul Sole 24 Ore di oggi. Oh, poi ti voglio segnalare tra le molte cose che tu devi tenere da conto, tutto quanto riguarda l'approvazione del decreto legge, che diventa definitivo, sul credito cooperativo e sulle non performing loans, cioè insomma i crediti deteriorati, sistema delle garanzie pubbliche per i crediti deteriorati. Ti segnalo in particolare oggi, poi, Casa 24, è giovedì, c'è Casa 24, non solo perché così potresti fare un pensierino per l'acquisto di una casa al mare, c'è a Panama c'è il mare a Panama. Insomma, questo non ci più di preoccupare di Panama, che ci sono già io e mi passo benissimo. Invece ti segnalo la cosa delle termovalvole. Non so se ricordati, caro Alessandro, che entro dal 2017 si ha il riscaldamento centralizzato e ci vuole la termovalvola. La termovalvola. Le leggi Casa 24 di oggi. Te lo consiglio anche proprio così per il tuo diletto. Poi c'è la possibilità, ma è un'ipotesi, che l'invio del 7.30 non debba avvenire entro il 7 luglio, bensì slitti al 23 luglio. Comincia a diventare precomplicato, insomma. Forse lo è sempre. No, leggi tutto su norme e tributi, Francesca Minato ti spiega perché. E poi ti vorrei segnalare, mentre hai lì l'agenda pronta. Eccoci qua. Lunedì, presso la sede del Sole 24 Ore, tutto lavoro, che è, come sai, la manifestazione di confronto tra gli esperti, anche i professionisti, gli operatori del mercato del lavoro, proprio sulle riforme e sul Jobs Act. Senti Mauro, ma vuoi dire qualcosa a Lorenzo che ci scrive che usa come password della rete internet Mauro Meazza? Ma non potrebbe sostituirlo con Panama o qualcosa del genere, no, che non è più di moda. Vabbè, vorrei dire che a proposito di internet, guarda, Lorenzo, provvidenziale, mi fa venire in mente che riferiamo di una importante decisione del Tribunale di Riesame di Palermo che ha ammesso l'uso del Trojan Horse, insomma ha ammesso una sorta di hackeraggio per fare delle indagini antimafia. È un passaggio molto importante. Leggi Giovanni Negri su norme e tributi e soprattutto, caro Alessandro, traffico! Alessandro Milan, tu sei migliore a leggere i giornali. Ovvia. Grazie, cara ascoltatrice. Allora mandate le vostre sigle via WhatsApp al 349-238-6666. Notizie politiche, due chicche che ho trovato, una sul Corriere e una sulla Stampa. Il Corriere, Francesco Verderami racconta un'interessante retroscena che Bertolaso è pronto al passo indietro. Amici di Roma che ascoltate, lascio se me lo chiede Berlusconi. Così Bertolaso, in realtà abbiamo detto che, a mio modo di vedere, è l'epilogo naturale di questa vicenda. Però è un tiramolla per ora, anche perché l'impasse del leader di Forza Italia è questa. Berlusconi non può ritirarlo perché dice: se lo ritirassi io dalla corsa tutti direbbero che Salvini è il capo. È una questione proprio di posizionamenti politici. Comunque il candidato sindaco a Roma racconta che ogni giorno, virgolette, offro il mio scalpo a Berlusconi. Presidente, gli dico, se per ragioni di superiore interesse nazionale lei dovesse cambiare idea, sono pronto a ritirarmi. È così. Sono pronto a ritornare al mio lavoro in Africa, se lui me lo chiedesse. Questo in retroscena di Verderami sul Corriere della Sera. Mentre retroscena di Jacopo Iacoboni sulla Stampa, per il Movimento 5 Stelle, Gian Roberto Casaleggio pensa di abdicare ed è pronto un passaggio dinastico. Gli succederà il figlio Davide Casaleggio. E questo è il retroscena di Iacoboni. Qualche giorno fa racconta un parlamentare molto importante del Movimento 5 Stelle salito a Milano alla Casaleggio Associati per una riunione con Gianroberto Casaleggio, un'ora e mezzo in cui il cofondatore del Movimento ha subito 5 o 6 pesanti cali dell'attenzione, faticando a mantenere la concentrazione per un arco di tempo consecutivo neanche troppo lungo. Il parlamentare è tornato a Roma e ha riferito: Gianroberto ormai ha mollato, non ce la fa più a star dietro al Movimento. C'è anche quindi questo aspetto, direi anche molto intimo se volete, che si fa capire legato forse, lo so, a problemi di salute. Comunque sta di fatto che parte da qui questo retroscena a dire che Gianroberto Casaleggio sarebbe pronto a mollare al figlio, così racconta La Stampa. Vi segnalo per le notizie di cronaca alcune cose che mi hanno colpito. Intanto, Beppino Englaro, vi ricordate ovviamente il papà di Eluana, io ne ho scritto anche un'intervista a lui su Libero, mi aveva preannunciato questa cosa, e cioè che aveva denunciato la regione Lombardia. Perché? Perché se ricordate la vicenda di Eluana, Eluana non è morta poi, non è stato staccato il sondino in Lombardia, dove era in una casa di cura, ma è stata portata in Friuli, perché la Lombardia vietò il distacco del sondino, che era l'applicazione di una sentenza di un tribunale italiano, vietò il distacco del sondino in qualsiasi clinica sul territorio della Lombardia. Beppino Englaro ha denunciato la regione e ha avuto ragione. E il TAR ha condannato la regione Lombardia a risarcirlo con 142.000 euro. Lo racconta Nicola Palma sul Giorno. Quel no della Lombardia al fine vita, i giudici risarciscono papà Englaro. Che non si è mai fermato, scrive il Giorno. La sua battaglia è andata avanti in silenzio. Ieri i giudici gli hanno dato ragione ancora una volta. La regione è stata condannata a versargli 142.000 euro come risarcimento danni, ribadendo che la figlia Eluana aveva pieno diritto a morire in Lombardia e lì avrebbero dovuto staccarle il sondino nasogastrico che l'alimentava e idratava artificialmente, senza costringere i genitori a sobbaccarsi il drammatico viaggio verso la clinica La Quiete di Udine. 142.000 euro, sentenza di un tribunale italiano sacrosanta. L'unica cosa che mi dà fastidio è che ora noi contribuenti dovremo pagare per, evidentemente, un atto illegale della regione di allora, retta da Formigoni, allora 142.000 euro di risarcimento. Che dire, quanto manca la chiusura? Un minuto forse. Vi segnalo anche dal Corriere della Sera questa inchiesta di Elvira Serra, cervelli all'estero ma non in fuga. 6 millennials su 10 sono pronti a trasferirsi. Millennials, cioè la generazione insomma nata ridosso della fine dello scorso millennio, e è interessante, vale la pena restare, è cambiato il paradigma. 20 anni fa nessun ragazzo si sarebbe sognato di farsi questa domanda, ora invece molti se lo chiedono e 6 su 10 di ragazzi dicono vale la pena andarsene all'estero. Meditate, gente, meditate. Elvira Serra sul Corriere della Sera. Rimango sul Corriere della Sera per la carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali a mio insindacabile giudizio. Ricordate, oggi do il premio a Beppe Severgnini, che racconta a pagina 49 del Corriere della Sera per i 10 anni di Twitter. I consigli, il decalogo di Beppe Severgnini. Primo, siate assidui e non abitudinari. Secondo, siate originali e non scontati. Ecco, tre, siate spontanei ma non impulsivi se andate su Twitter. Quattro, siate stimolati. Ma chi se ne frega!